4 mattino. 8:19 minuti, 2 secondi, vedo stagliarsi il profilo austero, il cipiglio risorgimentale eppure carismatico di Oscar Giannino. Ciao Oscar! Eccoci! I cani e gatti, ha una cravatta magenta. No, come magenta? Ti assicuro che è verde, no, acqua. Ma c'hai un filtro. O hai preso una sostanza, ma hai un filtro. Non hai preso una sostanza, io lo so, non prendi sostanza. Allora, è rimasta, è interessante discuterne con Oscar, la polemica del ministro Orlando. Molto duro, non trovo un precedente di un passaggio all'opposizione di tutti e due i presidenti che ha conquistato le prime pagine dei giornali. E forse la notizia politica, una polemica incredibile. Uno, perché che senso ha? Due, perché voglio solo citare dei casi. Fino a un certo punto, diciamo fino alla fine della Prima Repubblica, tutti i presidenti erano di opposizione per definizione, quindi cito Ingrao e Laiotti per dare un'idea, maggioranza pentapartita o democristiana e addirittura un presidente comunista. Dopo i presidenti sono stati leader di partito. E cito il caso di Fini, cito il caso di Casini, hanno fatto campagne elettorali. Quindi la domanda che ti faccio, Oscar, ma perché Orlando apre questo fronte per una legislatura che è quasi finita? C'è qualcosa che bolle in pentola per cui si potrebbe arrivare a un duello? Non lo so, non riesco a capire. No, io credo che ho visto che anche domenica Scalfari era violentissimo, senza precedenti. Dire senza precedenti per chi fa il nostro mestiere è molto grave, perché significa ignorare la storia. Cioè, quando ero giovane collaboratore del segretario di partito che voleva uscire dal pentapartito, Giorgio Lamalfa Spadolini era presidente del Senato e ci faceva la guerra, e la guerra nel senso che non voleva la fine del pentapartito. Partito, lo dichiarava tutti i giorni, girava il partito e faceva cose di questo genere completamente politiche. Tanto i tempi per dire. Della meravigliosa vignetta dei Frattini, lo raffigurò tutto nudo con una piccola foglia di edera. Sì, beh, ma quello lui amava Spadolini, secondo me tristemente dimenticato, perché invece era un uomo di merito e di cultura straordinaria, ha sempre fatto politica nel ruolo istituzionale che ha avuto. Questo tanto per dire, voglio dire, quindi non è vero che è senza precedenti, punto numero uno. E invece la violenza di questa polemica che cosa indica? Indica semplicemente che per molti o per alcuni nel PD il ruolo di Grasso è ancora più energico, ancora più diciamo divisivo per la sua polemica politica della Boldrini, della presidente Boldrini, è sicuramente, ecco, una ipotesi che non era stata contemplata, che aggiunge problemi a problemi. Io per esempio su questa ipotesi di soluzione, di mediazione, il ponte di Fassino, vedere per credere, per così dire. Però di sicuro la durezza di questa polemica deriva dal fatto che hanno già tanti motivi di crisi da affrontare, visto che poi scendono anche nei sondaggi, che non avevano messo in conto questi personaggi che hanno un traino aggiuntivo rispetto alle ragioni polemiche. Allora 800 24 00 24, e Giorgio da Torino: non avete parlato delle critiche ai presidenti di Camera e Senato per le loro uscite poco rispettose, lo abbiamo appena fatto, quindi l'hai mandato un attimo dopo questo. 349 238 6666 per i vostri sms. Io voglio discutere con Oscar di una cosa, ho letto un po' per ridere, però interessante, il giro di vita alla frontiera dei francesi sull'importazione legale peraltro delle sigarette, le bionde, l'ho letto dalla Verità, però sul Libero c'è l'idea che si voglia introdurre un balzellino 0,20 centesimi sulle sigarette. Ti sembra possibile? No, mi sembra possibile. Ogni volta si prova a dare una tassatina. Possibile. Nella legge di bilancio c'è la tassatona, devono tirare su 600 milioni di nuovo dalle accise, quindi sai, a volte... Cioè o di qua o di là, dici, da qualche parte devono colpire. Cioè noi siamo, noi in questo caso i fumatori, io non fumo sigarette, ma fumo sigarette toscane, lo sanno tutti, ma detto questo, siamo come dei poveri corpi esposti ai corvi nelle torri zoroastriane, c'è poco da fare, siamo degli indifesi e sono i classici consumi su cui lo Stato mette la mano pesante, tanto sa che poi può sempre rinfrescarsi la faccia con un po' di sapone etico dicendo che lo fa per il nostro bene, lo fa per il suo bene. E per a proposito di cose fatte per il bene, meraviglioso, voglio introdurre, ce lo dice Libero, il reato di istigazione alla dieta. No, vabbè, sì, ma infatti voglio introdurre il reato di istigazione alla dieta. Ah, ecco, io credevo sì. Che cioè devi dimagrire, si partono dal problema delle anoressiche, diventa un'istigazione alla dieta e quindi un reato, una cosa per cui uno non si sente più libero di dire no, voglio essere grasso, prendete esempio da me, 90 kg. No, ma io su questo combatto, insomma, va bene per il momento che non abbiamo ancora visto, ma guarda, fidati, fino all'ultimo giorno di dicembre che c'è la manovra aperta, mai dire mai. Il classico riemerge ogni anno nelle leggi di bilancio di qualche buontempone che per qualche spesa corrente in più dice facciamo la tassa etica sui consumi, per esempio le bevande con le bollicine, eccetera, eccetera, perché la gente deve impedire che ingrassi e quindi mettiamo una tassa aggiuntiva, che è la classica maniera come prima di coniugarla, questa volta a fini etici di metabolici invece che sul fumo. Io ho una diffidenza straordinaria verso le pretese pubbliche di dirci che cosa fare su tutte queste cose. Naturalmente conosco l'obiezione cari ascoltatori, per equilibrio facendo questo mestiere la ricordo, cioè chi dice sì però quella gente che non sa frenarsi ha poi un costo maggiore per il sistema sanitario che paghiamo tutti, bla bla bla bla bla. Sì, ma cioè tutto ciò con gente adulta e consapevole di quello che fa si scontra con una barriera che io invece difendo, cioè quella della libertà individuale. Per favore lasciateci almeno questo. Allora, arriva un messaggio via Twitter in questa volta e dice: ma è possibile che in Italia non si possa licenziare un allenatore e un dirigente che hanno fallito? Ovviamente no, però c'è una spiegazione tecnica. Ne parlavo con Nicola Lombardo, nostro ospite, stamattina. Il problema del contratto di Ventura, che è virtualmente finito, è che lui fino a giugno potrebbe essere pagato, avrebbe diritto al suo stipendio. Poi c'era una clausola che in caso di mancata qualificazione lo metteva fuori virtualmente dalla nazionale. Però la partita ora per cui si attende è questa. Bisogna che si incontri, bisogna capire con chi, e dica va bene, da gentiluomini stretta di mano, mi pagate l'onorario e io me ne vado. Sì, però queste cose in un paese civile si fanno in 3 minuti. Sì, però andiamo al nocciolo. Non, questa roba non avviene esattamente per il motivo per cui Tavecchia si è chiuso da 24 ore oramai e più nel confronto con gli unici poteri a cui deve rendere conto, che non sono quelli trasparenti di un sistema del calcio trasparente, sono quelli del blocco che l'ha eletto. Il blocco che l'ha eletto lo difenderà, non si dimetterà oggi Tavecchio, e quindi Ventura fino a che non gli dicono con chi l'hanno sostituito non può dire nulla. Se gli è sfuggita una parola in cui ha detto sì, come sappiamo, le Iene, poi si è dovuta rimangiare. Ma intervista perché in questo paese il blocco di potere calcistico di questo sistema, che ha 3 caratteristiche: poca tecnica di gioco, si capisce, debolissima finanza, cioè tutti indebitati tranne 2 club praticamente, e che poi ha troppa politica, in realtà sosterrà Tavecchio comunque, perché hanno portato a casa la riforma Lotti in una legge di bilancio in cui per legge non ci dovrebbe stare. Quindi a loro di tutto il resto, perdonami, non gliene frega niente. E questo è la vera taratura, caratura, allora, di questo sistema. Con Veltroni, ma io sono d'accordo con Veltroni, sì, duro. Figurati, Veltroni ha la responsabilità però di una riforma storica del calcio che si è rivelata sbagliata. Ecco, questo per quello che mi riguarda. Quando è era così. Ministro della cultura, quando era ministro tanti anni fa, perché l'ircocervo delle società di calcio a cui sono stati concessi dal potere politico per ragioni di consenso delle deroghe al codice civile, come dicevamo ieri, che ne hanno caratterizzato la debolezza finanziaria, e quello è stato un errore clamoroso per quello che mi riguarda. Hai letto il pezzo della Verità in cui si parla di questo parere positivo della BCE alla legge che blocca i conti correnti e i prelievi negli istituti a rischio? Ti sembra una cosa verosimile? Mi sembra, no, non per problema. Dunque, al di là del tono che non condivido, come sai, io non solo non sono di quelli che dà la colpa all'Europa e crede che in Europa siano dei... qui è un fatto tecnico, giusto o sbagliato, qui è un fatto tecnico. I prelievi. Sì, ma voglio dire, però è una misura che risponde a una finalità che è quella di evitare che vadano a gambe all'aria. Quando si diffondono notizie che hanno un fondamento rispetto ai conti di una banca che si avvia un pre-default, tu lo sai che il bank run, cioè la corsa agli sportelli, è quello che poi è in grado, in poche ore addirittura a volte, di generare la crisi definitiva della liquidità, cioè della sostenibilità della banca. E questa è la finalità, quindi è una finalità, per così dire, di carattere preventivo, per evitare che poi chi c'ha i soldi dentro li perda definitivamente. Questo per essere sinceri, quindi definitivamente, naturalmente nel limite della tutela, che nel nostro paese sono i 100.000 euro e così via, non è una misura predatoria, è una misura che serve aver pronta per far scattare quando una banca è arrivata proprio al limite, perché altrimenti esplode. Questa è la ragione vera. Come secondo me su questa storia di dire che l'Unione Europea è una barbara persecutrice perché ci dice che i nostri conti sono in regola, l'Italia non sono in regola, l'Italia non dice la verità, ha ragione la Commissione Europea, lo sappiamo tutti che è così. Mi dispiace per Padoan, al quale comunque riconosco che in questi anni non ha mai adottato il metodo degli urli della politica, che un po' Renzi anche invece ha preso ad adottare, però dire non gli rispondo è sbagliato, perché noi stiamo regalando alla prossima legislatura a un governo incerto un problema che è quello che non siamo in regola con i nostri stessi impegni. Dovevamo fare meno 0,6% il deficit strutturale l'anno prossimo, l'Unione Europea flessibile ha detto va bene, riduciamo alla metà, stiamo facendo un terzo di quella metà, lo 0,1 su, e ci prendiamo in giro da soli solo perché la politica vuole spendere di più, vuole spendere di più, e la novità politica, questa sì che è una novità politica, altro che due presidenti di Camera e Senato, è che per la prima volta i tre poli politici su questo sono tutti d'accordo, da Berlusconi a Renzi ai 5 Stelle, naturalmente non lo ammetteranno mai, ma vogliono tutti sforare il deficit e fregarsi degli impegni con l'Europa. Allora, sta per arrivare il nostro ospite, i numeri che vi ricordiamo, 800 24 0024 per le telefonate, ottenuto l'ultima ciliegina. So che soffrirai, è un dibattito che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Diego Andreatta su Avvenire ci racconta di una mozione della provincia di Bolzano votata all'unanimità, per cui domenica lì nella bellissimo paesaggio dell'Alto Adige non si lavora. Vabbè, non tocca ai politici farlo. All'unanimità. L'unanimità dei politici possono. Scusami, i politici sono unanimi su notizie. Adesso non essere antipolitico. Ma sono notizie tipo: politici, spendiamo di più a spese del contribuente, sono tutti d'accordo. Lavorate di meno e ve lo regaliamo noi il giorno di vacanza. Sono tutti d'accordo. Hai capito? La notizia è quando i politici sono tutti d'accordo su cose impopolari, non come questo. Che sono sbagliate, perché non spetta alla politica. È buona. Non spetta, secondo me, alla politica decidere quando si lavora e quando no. Ci sono i contratti, entro certi limiti. La politica deve sorvegliare che i contratti non vengano meno rispetto ai diritti, come abbiamo detto quando abbiamo parlato delle aperture commerciali domenicali e così via. Quello sì, ma stabilire gli orari e i giorni di no è un divieto, per così dire, che ci fa tornare indietro ai tempi del Papa Re. Ah, il Papa Re, questo è. Che poi è nostalgia Re, di tanti. Il Papa Re, sì, il Papa Re. Dammi una notiziola bella. La che politica. Ti ho dato tre perle, ti ho consegnato tre perle. Tu oggi sei un po' così. No, come un po' così? Bacco. Pensa, per rifarci del fatto che non andiamo ai mondiali di calcio, Visco e Vegas verranno sentiti entro Natale alla commissione parlamentare. Quindi faremo una specie di campionato interno della politica, vedendo le squadrette come ai tempi del subbuteo, e le due autorità, in mancanza di meglio, essendo venuti meno in pieno al loro ruolo di vigilanza sulla crisi, ci regaleranno un grande scontro di subbuteo, completamente inutile per i ragazzini della politica. Allora, pubblicità, e arriva Giuseppe Labbate. Sapete chi è? Il deputato 5 Stelle che ha tirato fuori la vicenda della Tari prendendola al sole e con la sua interrogazione ha fatto cadere quel castello di carte. Benemerito. Pubblicità. Mattino. Arrivo, presidente. Diciamo che non facciamo solo domande su a che ora avete iniziato il processo. No. Non mi faccia innervosire. Arrivo. Scusi, no, io non voglio fare innervosire nessuno, sono calmo, ho preso camomille. Se lei vuole tenere in piedi questa commissione, deve consentire di fare delle domande anche quando le dà fastidio. Dimenti, sì. Ma a me non dà nessun fastidio, non me ne importa nulla della sua domanda. Mitico botta e risposta fra Casini e Meloni, un confronto fra mondi, diversi messaggi, uno veramente malevolo, stupido. L'ultimo incarico di Spadolini è stato nell'87. Come ha fatto Giannini, nato nel 61, a militare nel Partito Repubblicano? Ragazzi, forse Oscar, meglio con informate. I pantaloni corti, cioè, era segretario della Federazione Giovanile Repubblicana. Io facevo questo signore il che dà giudizi ginnasio. È il classico italiano da bar. Mi spiace. Io facevo il quarto ginnasio al liceo Visconti e Oscar Giannino arrivò in un'assemblea di tutto in cui c'erano i diversi rappresentanti dei partiti, c'era Bobbo Craxi per i socialisti, era già leader con i pantaloni corti. Racconta un lampo della tua giovinezza nell'Edera. Portavoce nazionale del PRI, pensa un po', dall'87 al 94 lo sono stato. Vabbè, caro ascoltatore, ti è andata male, va, leggi un po'. controllo dei fatti. Giuseppe Labbate, buongiorno. Parlamentare al 5 Stelle. Sembra una storia un po' la Mr. Smith va a Washington. Cioè, quindi lei legge questa notarella sul Sole e decide di iniziare una lunga campagna, interrogazione, eccetera, che ha portato a questo disvelamento sulla Tari. È così? Sì, leggo questa notizia sul Sole, segnalata tra l'altro da un commercialista del mio comune, uno dei quali è stata applicata in maniera errata la Tari, e quindi prendo questa documentazione, l'approfondisco con i miei uffici ed effettivamente ci era sembrato anche a noi il fatto che in molti comuni ci fosse stato un errore nell'attuazione della Tari. A quel punto abbiamo presentato quindi un'interrogazione, perché quando io stesso ho chiesto nel mio paese nel 2016 alla nostra amministrazione se non fosse stato commesso l'errore, cosa risposero? Mi avevano risposto che sulle 24 ore aveva interpretato male la pensate un po'. Mai sfidare i giganti. Pensate un po'. E quindi a quel punto sono stato costretto a presentare un'interrogazione per chiedere al ministro quale fosse la corretta interpretazione della norma. E quando è arrivato in aula, racconti proprio. Il 18 ottobre 2017, l'interrogazione invece l'ho presentata il 24 ottobre 2016, quindi a distanza di un anno circa. Neanche un anno dopo. Finanze, sì, meno di un anno, in Commissione Finanze è venuto il sottosegretario Baretta, il quale ha risposto alla mia interrogazione dicendo chiaramente che tutti di coloro che sono proprietari di un'abitazione ed hanno anche delle pertinenze, che sia il garage, che sia una cantina, sì, che sia, ma che sia anche una seconda casa all'interno dello stesso comune che sia sfitta, non devono pagare la quota variabile sulle pertinenze. Questo oramai credo che sia chiaro a tutti. A Giuseppe, punto, ci dia la sua interpretazione su cosa è successo. È stato, come dire, una strategia voluta, abile, anche concertata con come dire, un paravento tecnico per imporre una mini patrimoniale? Cosa pensa lei ora? Cosa hanno fatto i comuni? Ma la stragrande maggioranza dei comuni l'ha applicata in maniera corretta. È stata una parte minoritaria che adesso l'ANCI si difende dicendo che la norma non era chiara, il Ministero dice che la norma invece è chiara, quindi già questa cosa che ci sono due enti che si rimpallano le responsabilità, diciamo che mina anche un po' la serietà delle istituzioni. No, ma soprattutto perché mi lasci dire, nel frattempo i comuni sono obbligati a trasmettere queste cose al Ministero. Il Ministero quindi, malgrado che ci sia stato chi fin dall'inizio ha detto che quella norma aveva un buco interpretativo, cioè lasciava un dubbio, il Ministero, quando Baretta poi risponde alla sua interrogazione e sui giornali rilascia interviste dicendo ma noi non abbiamo i dati, non sappiamo dirvi quanti comuni, noi loro i dati ce l'hanno, se poi non li guardano è un altro paio di maniche, cioè il MEF è venuto meno a uno dei suoi doveri di coordinamento della pubblica con gli enti locali, che sono obbligati, sono una Oscar, delle 18 cose chiedendo, obbligatorie. Ti giro la stessa domanda che ho fatto prima, vogliamo veramente pensare all'errore a macchia di leopardo in luoghi diversissimi, o c'era l'idea che comunque quella via tu la davi per rientrare in qualche modo? Ma guarda, siccome ho parlato con un mucchio di sindaci, che cos'è l'applicazione in alcuni, poi sono grandi comuni, stiamo parlando di Milano, Napoli, Genova, cioè chi ha scelto di fare così ha scelto di abbassare un pochino le aliquote in generale a chi non ha seconda casa, pertinenze e così via, e di alzarle un po' agli altri, quindi ha agito con questa astuzia. E adesso la cosa ancora più grave è fatta di due altre cose, perché il governo, essendo venuto meno al suo obbligo di vigilanza, adesso si deve inventare un modo, perché i sindaci dicono per noi non cambia niente, perché tanto la legge ci dice che noi tutti i costi del trattamento dei rifiuti li dobbiamo pareggiare al 100% con quello che incassiamo, quindi sapete che c'è, se dobbiamo fare dei rimborsi a chi ha pagato poi troppo, noi alziamo gli altri. E quindi quello che ti ridanno se lo riprendono, che è incredibile, perché capisci che al contribuente arriva l'idea che lo Stato fa come cazzo gli pare, ma no, come mi hai detto che dovevo pagare adesso, però, adesso devo pagare di più, ma dai, cioè. Su questo però diciamo che qui ci sono due situazioni. Due chiamate in attesa, state tranquilli. Qui ci sono due tipi di contribuenti, no? Cioè il contribuente che ha una pertinenza, è che ha pagato di più. E poi c'è il contribuente che non ha una pertinenza, è che ha pagato il giusto. Esattamente. Non ha pagato di meno, esatto. Ha pagato il giusto, ha pagato quello che gli è stato chiesto di pagare. Esattamente. Quindi non mi possono poi aumentare a chi ha pagato il giusto. Ma è ovvio. No, qui non c'è nessuno che cioè sarebbe come meno, far pagare qualcuno che ha pagato di più. Esatto, per sanare qualcuno che ha pagato di più si fa pagare anche gli altri, una follia. E adesso allora, il governo dice aspetta, vi diamo un fondo. Aspetta, questo è buono. Aspetta Oscar, qui ti devi scatenare perché ci manda uno ascoltatore questo messaggio, ma sulle pertinenze sono solo pochi euro. Vabbè, è giusto? Sono pochi euro per milioni di contribuenti, caro il nostro ascoltatore, la cifra sale, capisci? Non è questo il punto. Il problema è che adesso il governo dice: vabbè, però per il pregresso, cari comuni, per non mettermi in difficoltà, vi accendiamo un fondo nazionale i cui soldi li mettiamo noi. Non è che li metta il governo, li mettono gli altri contribuenti che devono pagare, perché tra Stato centrale e autonomie, su una legge, scoprono adesso che ciò che doveva essere chiaro non è stato chiaro, c'è chi ha pagato di più. Ma cioè è una catena di fenomeni di fronte ai quali, perdonami Luca e il nostro ospite, molti contribuenti dicono: e poi chiedete a me che io devo avere fiducia e dare un'adesione spontanea all'ordinamento fiscale quando vedo sta tarantella in cui l'unica cosa che capisco è che tanto mi randellate comunque. Emanuele da Bari, scusi l'abate, lo ascoltiamo, no, Emanuele, e poi intervenga subito dopo, così risponde anche lui. Emanuele, prego, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, volevo intervenire. Lei ci ascolta tutte le mattine? Quasi tutte le mattine. Oh, meno male. Io volevo intervenire sull'argomento Tari, perché ho appena ascoltato il deputato 5 Stelle dire che c'è stato chi ha pagato... Giuseppe Labbate. In realtà non è corretto, perché la quota variabile applicata in misura maggiore sui contribuenti che hanno la pertinenza ha prodotto sostanzialmente una cattiva distribuzione del costo. Quindi posto 100 il costo, il problema sta nella distribuzione di quel costo. I comuni non hanno chiesto 110, hanno distribuito male i 100. Il fatto che nell'errore sia stata svantaggiata la famiglia con la pertinenza ha prodotto automaticamente un vantaggio a favore di coloro. No, le spiego perché sbaglia anche lei, però è indotto o è un amministratore pubblico. Capisco gli amministratori pubblici debbano ripeterci questo, perché sono, si fanno garanti del fatto che la legge dice, ripeto, che la Tari deve coprire al 100% i costi. Guardate, un'imposta è una tassa, sono un'imposta è una tassa, non sono un gioco al lotto truccato in cui sono una specie di corrispettivo variabile per coprire un costo che si fa con una gara e che è tutt'altro paio di maniche. Se una tassa deve essere in proporzione al servizio, invece no, la Tari è ovviamente per metà imposta patrimoniale superficie, per metà parte variabile, cioè per esempio numerosità della famiglia, cioè stimati, cioè, consumi. Invece dovrebbe essere una tassa, ci dice l'Europa, sui consumi, come si fa in alcune parti dell'Alto Adige, dove addirittura la Tari si paga così, a seconda del numero dei sacchetti che io vieni a comprare in comune, c'è la volumetria precisa dei rifiuti, perché non potrai darli fuori da quelli. E se sgarri col sacchetto, col codice, allora, ti fanno allora paiolo, capisce? Quindi ecco. dirci non è vero che c'è chi ha pagato il giusto è una maniera impropria e distorcente di aderire a questo schema, per cui una tassa comunque non è definita né per il servizio né come patrimoniale, dove non dovrebbe esserlo, ma serve semplicemente a coprire a piedi lista un costo deciso in una gara. Capisce che lei mi sta dicendo una roba che, se rispondi a una domanda di diritto tributario, che cosa un'imposta, una tassa, così la copertura a piedi lista discrezionale di un costo di una gara, ti sbattono fuori dalla porta? Ecco, e io per questo mi incazzo e alzo apposta la voce. Emanuele, non perché sia matto, non si preoccupi, è il trattamento, sono di un caratteriale, tutti. Siamo un bar dove si discute animatamente, risponda se vuole e lei poi... fa bene ad incazzarsi, ma siccome io mi occupo di fiscalità locale lo so che mi scusi però mi faccio parlare, siccome io mi occupo di fiscalità locale e potrei avvantaggiarmi di questo evento, perché ai comuni, i miei clienti, ho sempre detto di non applicare la quota variabile e me ne avvantaggio. Però siccome, diciamo, conosco benissimo l'argomento e so esattamente che c'è una confusione, quello che lei rappresenta, una confusione tra l'aspetto fiscale e l'aspetto, e l'attenzione che è importante, perché altrimenti non si fanno gli interessi generali. È il problema del ciclo di gestione dei rifiuti, che deve è un essere problema serissimo, che lei ha descritto esattamente, che riguarda moltissime regioni d'Italia, ma è un problema diverso. Certo. Quindi se vogliamo affrontare l'argomento in maniera seria, dobbiamo stare dobbiamo fare molta attenzione ad affrontarlo a 360 gradi. Aderisco. E poi ne approfitto per dire un'altra cosa. Mentre noi stiamo discutendo di Tari, devo fermare perché abbiamo pochissimo tempo. Richiami Un attimo, mentre noi discutiamo di dati, stanno discutendo, o forse hanno approvato già in Parlamento, ne approfitto visto che c'è il parlamentare, stanno approvando un emendamento in sede di conversione del decreto fiscale della legge di stabilità, penso decreto fiscale, decreto dove fiscale. Sostanzialmente stanno reintroducendo il monopolio a favore dei concessionari privati per la riscossione e accertamento dei tributi locali, che serve per riprodurre quel monopolio che ha prodotto tutti gli ammanchi e tutti i disastri, compreso per larga parte questo della Tari, perché la conseguenza di consulenze sbagliate fatte in larga parte anche dai concessionari. Quindi noi parliamo, ci sono delle lobby che io ho combattuto perché ho fatto ricorso a Tarlazio. Che sono all'opera, che sono all'opera. Bene, grazie, perché troppi argomenti insieme non si riescono a trattare. La domanda proprio banale: ma il rimborso non è automatico? Ci chiedono via no. SMS. No, questo no, è il problema. Avete 5 anni di tempo per avanzarlo. Entro 180 giorni, in teoria, secondo la legge, vi devono rispondere, ma possono rispondervi anche con un semplice silenzio, che a quel punto è il silenzio rifiuto. Spetterà a voi farlo. Chi da anni, da nove anni, sta aspettando i rimborsi della doppia IVA sull'imposta precedente, una delle tante precedenti alla Tari, che si chiamava TIA, non ha quasi mai incassato ancora niente, perché lo Stato che ci fa prediche quando si tratta di ridare i soldi impropri che ha preso è molto lento. Allora salutiamo, ringraziando Giuseppe Labbate per questa opera, questa meritoria. Vuole dire l'ultima cosa prima di abbandonarci? Sì, io vi ringrazio. Un'ultima cosa, io ieri ho sentito anche l'intervista del presidente Anci, De Caro, quale rimpallava la responsabilità al ministero, però lancia al suo interno anche una fondazione che si chiama IFEL, che è deputata al controllo e anche al monitoraggio dell'applicazione delle leggi. Quindi, siccome il caso è stato sollevato dal Sole 24 Ore già nel 2014 con un primo articolo, magari si poteva già fare lì una prima verifica attraverso quest'ente, che tra l'altro paghiamo noi con il prelievo del 6 per 1000 dall'IMU, che pagano tutti gli italiani, e quindi magari avere da lì già un'interpretazione corretta poi da inviare ai comuni. Quindi, insomma, di errori ne sono stati fatti parecchi da diverse parti. Certo è che adesso questi contribuenti che hanno versato di più hanno il diritto a ricevere il rimborso. Dovrebbe essere automatico e d'ufficio. Roberto Dalimonte, buongiorno. Salutiamo quindi l'abate, tante telefonate, fate pazienza, resistete. Roberto Dalimonte ha scritto oggi un pezzo illuminante sul Sole 24 Ore, perché sono le regole che definiscono le scelte della politica, in cui spiega, e gli chiediamo di farlo con l'altrettanta chiarezza e ancora più sintesi, perché la desistenza che si fece nel 96 a sinistra, per esempio fra Rifondazione Ulivo, oggi è impossibile con questa legge elettorale. Buongiorno. Buongiorno. Temo di doverla deludere. È difficile o sconveniente? Perché è complicato spiegarlo in maniera sintetica, semplicemente perché provo a dirlo io, ecco, bravo, e poi lei mi dice se è sbagliato. Bravo, lei si è incazzato più bravo di me. No, bravo. Cioè, diciamo, spiegando in termini banali, siccome i voti del proporzionale influenzano il maggioritario e viceversa, se un partito rinuncia a presentarsi in alcuni collegi perde voti nel proporzionale. Quindi, esempio, se MDP vota dei candidati del PD, dà dei voti al PD, giusto? E viceversa. Sì, è così, sostanzialmente è così. E allora questa legge, veramente il voto disgiunto sarebbe stato importante, perché rende molto difficili le alleanze, diciamo, di tipo spurio, o forse le vuole proprio penalizzare? Beh, in realtà voleva penalizzarle, forse qualcuno non si è reso conto che penalizzava se stesso. Uno a caso, diciamo così. Questa è una battuta cattiva uno a caso. Renzi. Ma secondo lei è cambiato in corso d'opera, diciamo, perché è cambiata la scena politica da quando è stata votata la legge, o che cosa? Perché è successo questo? È successo perché anche in politica spesso c'è molta superficialità, e chi ha fatto questa legge elettorale non ha calcolato bene gli effetti sistemici di questa legge elettorale. Fare la legge elettorale è una cosa complicata, sia perché i meccanismi sono complicati, è complicato soprattutto poi capire quali sono gli effetti in un determinato contesto di questi meccanismi, e questo è l'aspetto che viene spesso trascurato. Le chiedo l'ultima domanda delle 100 pistole che si fanno tutti da casa. Lei ne parla nella prima parte del suo pezzo. Nei collegi è vero quello che alcune simulazioni in mano ai partiti uscite sui giornali ci dicono, cioè nel centro-nord non c'è trippa per gatti, il centrodestra, così non essendo possibile neanche una desistenza, potrebbe fare cappotto? Beh, è possibile. Io ricordo che nel 94, quindi siamo ai tempi della legge Mattarella, dove, come si sa, c'erano i collegi. Bene, nel 94 al nord si sono presentati nei collegi da una parte un'alleanza di sinistra, i progressisti, no? Ricordate? Sì, come no. E dall'altra il Polo delle Libertà. E in mezzo bene. C'era il Patto per l'Italia di Democristiani e Segni. Esatto, bene. È finita che nei 180 collegi del nord i progressisti ne hanno 14 su 180. Mm. E di questi 14 solo due a est del Ticino, gli altri 12 erano tra Piemonte e Liguria. Ecco, questo più di simulazioni che sono inaffidabili oggi, visto che non abbiamo i dati nemmeno i collegi. Ecco, questa comparazione con il passato può dare l'idea di come potrebbe andare a finire nei collegi del nord. Una grande memoria storica, oltre che professionale, quella di Dalimonte. Dalimonte, grazie. Lei ci conferma solo una cosa per dire a chi è sì. A casa. Professore, chi ci conferma Oscar Giannino. Buongiorno, quello che scrisse, però per far capire a casa è importante. Più o meno perché uno dei poli possa avere con la legge Rosato la maggioranza propria, conferma, dovrebbe almeno beccare intorno al 40%, non meno, dei voti del proporzionale e intorno al 70% almeno dei collegi uninominali, è così? Certo, questo è interessante. 40 per essere precisi, il 40% dei seggi proporzionali, certo. E il 70% dei seggi maggioritari. Ora, il 40% dei seggi proporzionali potrebbe non corrispondere al 40% dei voti proporzionale, qui entriamo nei tecnicismi. Cioè si può fare con meno perché sono sì. Meno quelli che accedono al quorum. Bravo, cioè perché, cioè, in altre parole, se ci saranno molti partiti che restano sotto la soglia del 3%, certo. Quindi certo. Quello che noi chiamiamo voto disperso, allora il 40% di cui parlavamo dei seggi, certo. Potrebbe essere ottenuto con meno del 40% dei voti. Certamente. Questa è una delle condizioni che può modificare il calcolo a perfetto. Cui lei ha fatto riferimento. Perfetto. Però, bene. Ripeto, è comunque un esito molto... L'esito, cioè, maggioritario. Sì, cioè un sì. Esito per cui uno dei contendenti vince la maggioranza assoluta dei seggi, resta un esito molto, molto improbabile. Molto improbabile, certo. Bene, importante, Ivano da Milano, atteso tanto. Buongiorno a Dalimonte. Buongiorno, posso parlare? Sì, non frughi, per carità. Le chiedo scusa, volevo tornare. No, no, c'è un però rumore la qualità brutto. non rende possibile, dai. È caduta? Eh sì. Va bene, mi dispiace. 30 secondi, Oscar, dacci la tua notizia alla finale. Allora, sulle bollette a 28 giorni, pare che sì, la legge di bilancio dice no, le fatte mensili, però le compagnie telefoniche non ci rimetteranno soldi. È la classica cosa all'italiana. Cioè, avete tempo. Aumenteranno le bollette. No, hai capito? E quindi resta che il totale degli incassi resta maggiore. Pensateci in Parlamento prima di scrivere una cosa simile, perché fate la figura dei venditori di pere cotte. Voi, Tavecchio e tutti i padroni del calcio italiano, ma sulla stessa livello. Bene, i cani e i gatti hanno finito per oggi, ci sentiamo domani!